Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio. Anche in queste giornate a cavallo fra Natale e Capodanno abbiamo deciso di tenervi compagnia parlando dei temi più cari a Salva Danaio, cioè la cura della finanza personale e familiare. Ne abbiamo parlato anche ieri focalizzandoci sulle tematiche del risparmio. Oggi invece vogliamo curiosare sulle vostre abitudini di consumo. E come abbiamo fatto ieri analizzando le scelte di risparmio e la gestione del risparmio, appunto, anche oggi per commentare l'ambito del consumo, dalle bollette al carrello della spesa, abbiamo voluto dare un taglio speciale alla nostra trasmissione curiosando nelle case e nel menage familiare dei nomi più noti del nostro palinsesto. Anche oggi mi sono fatta gli affari dei colleghi conduttori di Radio 24 e le loro esperienze saranno oggetto delle considerazioni che faremo con gli ospiti di oggi della nostra trasmissione. Come vi dicevo ieri, abbiamo analizzato l'atteggiamento verso ciò che è il tema del risparmio, la pianificazione finanziaria per il futuro della famiglia e dei figli. Oggi invece andiamo alle scelte un po' più quotidiane, andiamo ai consumi, al carrello della spesa, come si spende nel quotidiano, come si leggono le bollette, alle abitudini quindi che convivono anche con le scelte di risparmio. Chi c'è con noi quest'oggi? Intanto Marco Bulfon, esperto di indagini di mercato di Altro Consumo. Bulfon, bentornato a Salva Danaio, buongiorno. Grazie, buongiorno a lei gli ascoltatori. E poi due colleghi giornalisti, ma non solo, Manuela Soressi, che fa quasi esclusivamente, credo, la giornalista professionista, collabora con numerose testate, fra cui anche Il Sole 24 Ore, esperta di tematiche su consumi alimentari. Manuela, buongiorno, ciao, benvenuta a Salva Danaio. Grazie, buongiorno anche a voi. E poi un altro collega giornalista che ha scelto anche nell'ambito del suo percorso personale di intraprendere un'altra attività, adesso ce la faremo raccontare, Giancarlo Marini, che ha fondato qualche anno fa il Gasdotto, che è un gruppo di acquisto solidale del QT8 appunto di Milano. Giancarlo, ciao, benvenuto. Benvenuto. Ho detto tutto correttamente? Ciao, sì, perfetto. L'ho detto correttamente perché stavo leggendo le sue note personali che sono contenute nel libro che ha scritto da qualche mese insieme a Michele Bernelli. Si chiama L'altra spesa, consumare come il mercato non vorrebbe. Allora, andiamo subito alle nostre esperienze dei colleghi di Radio 24, perché anche raccoglierle ci ha divertito parecchio. Io, tra l'altro, voglio anche fare una precisazione. Mi rendo conto che nel tentativo di alleggerire la trasmissione abbiamo interpellato forse persone che non fanno un lavoro qualunque, ne facciamo i giornalisti. Non abbiamo sentito, per raccogliere queste testimonianze, operai e impiegati, commessi, panettieri e giardinieri. Però vorrei anche sgombrare il campo dall'equivoco che è anche molto diffuso fra chi ci ascolta, che i giornalisti siano tutti dei plurimiliardari. Invece scoprirete una grande normalità anche nella vita di queste persone. La normalità contraddistingue anche la vita di noi giornalisti. Ci è sembrato carino sentire cosa succede nelle case e nelle famiglie dei nostri colleghi. Gli amici che ci hanno raccontato gli affari di casa propria sono stati Nicoletta Carbone, Gigi Garanzini, Matteo Caccia, Stefano Gallarini e Alessandro Milan, che saluto e ringrazio molto. Io direi di partire subito con la prima domanda che abbiamo fatto loro, ed è stata la seguente: la crisi che stiamo attraversando da qualche anno a questa parte ha creato preoccupazione nell'ambito della tua famiglia e si è tradotta in un cambiamento delle abitudini di consumo e risparmio? Sentiamoli. I miei genitori sono andati in pensione praticamente in questo periodo. È arrivata la crisi e allora hanno deciso di darsela a gambe. Sicuramente sono cambiate le abitudini di consumo, si cerca sempre di risparmiare. Sono preoccupati, credo, per me, ma da sempre, come tutti i genitori, quindi non per la crisi. Come tutti i genitori sono preoccupati per il proprio figlio e in particolar modo per un figlio che fa un'attività che è di questo tipo, di questo tipo, sì. Volatile proprio come, sì, il mercato, che è sempre a metà tra gli attori e le prostitute, che sai che un tempo erano la stessa categoria, erano considerati allo stesso modo. Un aspetto inedito per Salva Danaio. Sì, un pochino sì, soprattutto nel senso, per esempio, di avere questa bella casa di campagna e magari, anziché appunto le sciocchezzuole oppure le trovate di una volta, magari, come dire, studiare una miglioria, studiare una manutenzione lì, sull'esistente e sul mattone, piuttosto che l'avventura. Volevo subito sentire l'associazione dei consumatori, che tra le vocazioni più importanti che ha Altro Consumo è proprio quella, mediamente, di monitorare proprio le scelte delle famiglie nei loro comportamenti nei supermercati e nelle scelte appunto di consumo. La crisi e il cambiamento delle abitudini di consumo. Marco Bulfon, quali sono le tendenze macroscopiche più recenti che avete osservato quest'anno? Ma gli indicatori in prevalenza parlano di una certa tendenza a come dire, limitare o come dire, diminuire la spesa soprattutto di una buona parte di prodotti che solitamente vengono considerati essenziali, per esempio calano i consumi in prodotti alimentari, invece curiosamente rimangono piuttosto stazionari o addirittura in crescita i consumi per esempio di prodotti tecnologici, calano molto i consumi di prodotti per la mobilità e quindi insomma si stanno verificando delle alterando in qualche modo l'approccio, direi, delle famiglie ai propri consumi. Una recente indagine di Confesercenti, se non ricordo male, che era dedicata ai temi delle spese natalizie, osservava come la principale preoccupazione delle famiglie fosse legata alla propria situazione economica. Questo era il problema che si poneva il 30% delle famiglie interpellate e nello stesso tempo più o meno la stessa percentuale diceva che viveva questo Natale con speranza, cioè mentre da una parte si è preoccupati, dall'altra però si ha ancora in qualche modo una certa fiducia che nel più o meno prossimo futuro la situazione dovrebbe in qualche modo cambiare. E insomma, quindi per molte famiglie la situazione rimane ancora un po' complicata, magari a volte c'è anche proprio un atteggiamento prudente, nel senso che si fa anche fatica a sbilanciarsi troppo e si vuole mantenere anche un tono un po' modesto, no? Nell'esprimere ciò che potrebbe accadere nel futuro. Mi colpisce molto questa sorta di contraddizione, Marco, che ha notato: preoccupazione della situazione economica ma speranza per il futuro. Forse si cerca in qualche maniera di sperare, perché forse, e molti ce lo dicono, la crisi è la fase più acuta, è ormai alle spalle, anche se ancora molti italiani ne stanno pagando le conseguenze, perché c'è ancora chi non ha trovato un posto di lavoro dopo averlo perso, c'è ancora chi è in cassa integrazione, in mobilità, per cui c'è stata una drastica riduzione anche delle entrate mensili nell'ambito di molte famiglie. Questo lo si è visto non solo nel carrello della spesa ma anche nella difficoltà a rimborsare i mutui, a rimborsare le rate, e quindi insomma c'è stato un cambiamento radicale nelle abitudini appunto delle famiglie, soprattutto per quelle che hanno vissuto una situazione più difficile. Mi soffermerei però ancora con Manuela Soressi al carrello della spesa, perché è anche vero che la crisi potrebbe aver comportato un cambiamento nella composizione di questo, perché entrano meno redditi o addirittura in certe famiglie ne entra in maniera secca uno in meno perché c'è chi non lavora, e però forse c'è stato anche un atteggiamento più responsabile nei confronti della gestione della bilancia familiare, Emanuela, proprio in virtù di questa crisi, anche se necessariamente magari all'interno della medesima famiglia dalla quale parliamo non si è perso il lavoro, no? Cioè gli italiani sono diventati un po' più consapevoli di come spendono e di quanto spendono. Sì, sicuramente sì, ed è un fenomeno che è nato già da alcuni anni. È cambiato profondamente l'approccio degli italiani con le spese quotidiane. Diciamo che da un lato c'è stata una maggiore attenzione alla convenienza, in questo gli italiani sono stati aiutati dalle politiche attuate dalle maggiori catene distributive, che ormai si stanno rincorrendo e sfidando a colpi di promozione. Gli ultimi dati che io ho a disposizione, che mi hanno fornito gli istituti di ricerca, parlano di una pressione promozionale che è arrivata al 24%, quindi possiamo dire che ormai un prodotto su quattro venduto in promozione. Questo permette agli italiani da un lato di conservare il loro genere, il loro stile di consumo risparmiando, ma dall'altro ha comportato anche una diversa attenzione a quello che si acquista. Temi come la riduzione degli sprechi, ad esempio, sono diventati temi ormai all'ordine del giorno, se ne parla molto spesso, alcuni anni fa erano degli argomenti un po' tabù, quindi penso che gli italiani, e le ricerche lo confermano, abbiano un approccio più razionale, più informato alla spesa, confrontino i prezzi, le promozioni, siano anche più smaliziati, magari capaci di andare un po' più in profondità e leggere con più attenzione i volantini. C'è da dire che hanno anche accesso a molte più informazioni rispetto al passato, perché la grande distribuzione soprattutto, oltre a inviare questi quintali di volantini nelle casette delle poste, permette ormai di ricevere via email o addirittura via SMS le stesse offerte della settimana, quindi un consumatore informato e attento può effettivamente risparmiare sulla sua spesa in maniera abbastanza agevole. E allora, proprio a proposito del capitolo spesa, vi faccio sentire un'altra rosa di testimonianza testimonianze dei nostri amici conduttori di Radio 24, a cui ho chiesto: quando prendi il carrello, entri al supermercato, insomma, giri in maniera del tutto indifferente tra i corridoi del centro commerciale, oppure fai attenzione alle offerte, sei uno sprecone con il cibo, ti si rovina la roba in frigo e devi buttare una volta a settimana la spesa fatta? Sentiamo. Cerco sempre di privilegiare quelli che sono i prodotti di qualità su cui non transigo, e là se ci sono delle offerte ben vengano, però, e poi a seconda, ci sono spese e spese. Non sono molto capace a controllare le cose che ho nel frigorifero, ma più che altro perché a me piace mangiare fuori e quindi vado a fare la spesa, per lo più a stomaco vuoto, quindi compro cose che non mangio per la cena o per il pranzo e quindi ce l'ho lì. Però quando riesco a recuperare della roba che ho lì da una settimana sono molto felice. La spesa la faccio io e non spreco assolutamente nulla, nel senso che anche se qualcosa è scaduto da un giorno o due, lo cucino e lo mangio, detesto buttare via. Cerco le offerte, nel senso sui prodotti per i quali non c'è, secondo me, tanta differenza tra la marca e, che ne so, il detersivo, l'ammorbidente. Detesto i supermercati, non voglio sapere cosa siano, avendo la fortuna di vivere in campagna. La spesa la faccio nelle botteghe di una volta, poi in città cerco il se non il piccolo negozio che ormai è praticamente, ma sono capace di cambiare quartiere e di andare a cercarlo. Giancarlo Marini, da quanti anni non entri in un supermercato? Da 15 giorni. Ah, beh, insomma, no, adesso. Nel senso che ormai. Io ti avevo idealizzato così come se fossi ormai un fossile, un reperto archeologico dei consumi, e invece non è così. L'obiettivo finale è quello di non entrare più in un supermercato. Adesso su alcune cose ogni tanto bisogna ancora fare i conti. Ti devo ripresentare perché gli ascoltatori, appunto, hanno sentito questa voce adesso al ritorno dal nostro contributo in cui abbiamo raccolto le voci dei colleghi conduttori di Radio 24 che ci hanno raccontato le abitudini di consumo. Giancarlo Marini, oltre ad essere un collega giornalista, ha fondato anche nel 2004 il Gasdotto, Gasd'8, è il gruppo di acquisto solidale del quartiere QT8 di Milano, e l'ha fatta, appunto, questa esperienza l'ha condivisa con Michele Bernelli, e insieme hanno condiviso anche la stesura di questo libro, L'altra spesa, consumare come il mercato non vorrebbe. All'inizio della trasmissione mi ha detto: non farmi raccontare un'altra volta, per la 200ª volta, cosa sono i gruppi di acquisto solidale, e però, insomma, per portarlo in giro questo messaggio, Giancarlo, in qualche maniera, chi non ne ha mai sentito parlare, dobbiamo riproporlo, forse un ABC veloce, dai. Allora, un ABC veloce, partiamo un attimo da lontano. In questi giorni c'è stata, Report ha concluso le sue trasmissioni, il primo ciclo di trasmissioni, parlando di PIL. All'interno di questa puntata, che consiglio a tutti di riuscire a recuperare, si è parlato anche del fatto che noi sempre di più non siamo più dei singoli individui, ma siamo dei consumatori. Intorno a questa idea di consumatori è costruito tutto il nostro sistema economico. Che cosa significa? In sostanza, che alla fine il consumatore che cosa va a guardare? Per prima cosa va a guardare quello che è il prezzo, dimenticandosi che dietro quel prezzo che noi paghiamo ci sono dei costi sociali spesso immensi che non consideriamo, che sono il lavoro nero, il lavoro precario, le merci che arrivano dal Sudafrica o da qualsiasi altro paese, che quindi significa trasporti, inquinamento, imballaggi, inquinamento per pesticidi. Ecco, c'è qualcuno che a un certo punto ha pensato che si potesse comprare in un altro modo, tenendo presente che c'è un bene comune da salvaguardare, e questo bene comune si può salvaguardare anche facendo la spesa. Ecco, noi abbiamo provato a raccontare quella che è la sfida dei gruppi di acquisto solidale, cioè gruppi di famiglie che si sono organizzate, si sono messe insieme perché la loro spesa sia una spesa responsabile, responsabile verso chi lavora, responsabile verso l'ambiente, e istituito con i produttori, che sono di genere i piccoli produttori, dei rapporti di fiducia, e insieme hanno studiato e stabilito un prezzo che non è più dato come nell'economia classica dell'incontro tra la domanda e dell'offerta, ma da un valore, il valore del loro lavoro, il valore del risparmio, il valore del bene comune che è ambiente, che noi tutti insieme proviamo a tutelare. Un mondo che ha avuto peraltro un'evoluzione enorme negli ultimi anni nel nostro paese, perché dall'acquisto magari di prodotti legati all'agricoltura, piuttosto che anche, se Giancarlo mi sgrida tutte le volte che lo racconto, dal famoso latte in polvere che molte famiglie andavano ad acquistare in Austria per risparmiare perché nelle farmacie italiane aveva dei costi insostenibili, in realtà oggi si fanno dei gruppi d'acquisto per comprare molte più cose. E sentiamo quali sono le sfide allora del mondo dei gas, dei gruppi di acquisto solidali. sono cresciuti tanto e velocemente, forse ancor più velocemente di quanto ci si potesse augurare, e il diventare grandi apre nuovi scenari e anche nuove contraddizioni che non si possono affrontare con gli strumenti e i tempi dei vecchi modelli associativi. Per i GAS è il tempo delle sfide, prima di tutto quella di essere sempre più incisivi, senza snaturare la propria identità e la dimensione di un movimento che si muove con i propri tempi, a costo di perdere qualche treno. Nessuno avrebbe pensato in quel lontano 1992 che da quel gruppo di amici a Fidenza sarebbe nata una realtà capace di attirare molti appetiti commerciali e di svegliare l'intraprendenza dei furbetti del biologico e del solidale, fino a far discutere i GAS sull'ipotesi di proteggersi con un marchio brevettato, usando le regole del sistema per difendere la scelta di stare fuori dal sistema. Negli anni la crescita dei GAS ha finito naturalmente per attirare l'interesse di giornali e televisioni che sempre più spesso e sempre meglio si sono occupati della loro esperienza, prima magari osservandoli solo sotto la lente del risparmio, poi arrivando a capirne e presentarne le diverse sfaccettature. E di pari passo è salito anche l'interesse del palazzo, inteso come luogo della politica. I rapporti con i partiti e le istituzioni sono un altro nervo scoperto nell'universo dei gruppi di acquisto, intorno al quale costruire pratiche e modelli di partecipazione totalmente nuovi che tengano conto di un movimento che non ha vertici decisionali, ma si basa su un processo di maturazione lenta e condivisa. Certo, questo muoversi a piccoli passi ha qualche rischio. Primo tra tutti, quello di creare un'esperienza chiusa che a parole si apre a tutti, ma nei fatti finisce per costruire steccati dentro i quali è difficile entrare. Se ne lamentano i produttori che cercano di presentarsi ai GAS, se ne lamentano tanti aspiranti gasisti che devono mettersi in lista di attesa e non capiscono perché non possono pagare una quota e associarsi come si fa in mille altre realtà. Ma è qui, in questo equilibrio tra muoversi senza perdere identità e conservarla a rischio di immobilizzarsi, che si gioca il futuro dei GAS. Queste dunque erano le sfide del mondo dei GAS, dei gruppi di acquisto solidale. Adesso ci fermiamo, abbiamo la nostra prima pausa e ritorniamo tra pochissimo per affrontare il 2010 dei consumi delle famiglie italiane. Speciale Salva Danaio, in queste giornate a cavallo fra Natale e Capodanno stiamo tenendovi compagnia con i temi che più vi sono cari, quelli che mediamente affrontiamo abbastanza spesso nella nostra trasmissione: il risparmio familiare, tema commentato ieri con Marco Liera. Oggi invece andiamo alle scelte di consumo, a come si riempie il carrello della spesa, cosa è successo quest'anno, quanto la crisi ha morso ancora anche nelle scelte appunto fatte al supermercato, perché abbiamo raccontato appunto all'inizio della trasmissione che ovviamente sono cambiate le condizioni economiche di milioni di famiglie per le problematiche legate all'andamento del mercato del lavoro, ma è anche vero che questa crisi ha prodotto sicuramente una maggiore consapevolezza, un raziocinio, in sostanza, passatemi il termine, diverso rispetto agli anni passati, quando forse c'era un po' più di leggerezza e ci si lasciava attrarre molto di più anche da tutto ciò che si vedeva al supermercato. Anche se, Marco Bulfon, vorrei ritornare con lei a quello che ci ha detto all'inizio, responsabile delle indagini di mercato di Altro Consumo. Calano gli acquisti per gli alimentari, secondo i vostri osservatori, calano i prodotti legati alla mobilità, viene alterato, si cambia il carrello dei consumi, ma la tecnologia non perde colpi, No, questo è un aspetto molto curioso. Il fatto che ci sono alcune tipologie di consumo che sono, come dire, trasversali anche per fasce sociali, per categorie di reddito, e che non conoscono un'effettiva flessione di consumo. Peraltro, anche per quanto riguarda, che so, prima citavo il caso dei prodotti alimentari, è vero che ciò che diminuisce solitamente in questi casi è la spesa. Questo vuol dire che le famiglie non necessariamente diminuiscono quello che consumano, più verosimilmente distribuiscono in maniera diversa la propria spesa, orientando probabilmente una parte della propria spesa su prodotti che costano meno. Da questo punto di vista credo che come dire, il mini sondaggio che avete fatto sentire prima tra i vostri colleghi faceva proprio emergere, credo, questo aspetto. C'era chi non rinunciava affatto alla qualità, chi invece al contrario diceva di essere più attento, di guardare di più quelle che erano le offerte, e presumo anche per molti aspetti anche le differenti tipologie di prodotto che vengono proposte. Manuela Soressi, collega esperta di tematiche su consumi alimentari, scrive per moltissime riviste e quindi anche in questo caso, come dire, un osservatorio piuttosto complesso, il suo è completo su quelle che sono le scelte delle famiglie. Ci dicevi prima tempi duri per i distributori che hanno dovuto ovviamente adeguarsi ad una domanda diversa da parte delle famiglie, domanda diversa figlia della crisi, figlia anche di scelte più consapevoli, e però sono cambiate anche molte delle abitudini delle famiglie italiane, perché sono cambiate anche le condizioni che non sono solo relative al reddito, anche le famiglie oggi sono un po' più piccole, le case sono un po' più piccole, al supermercato, mi raccontava prima Manuela, se ci fate caso, non esiste per esempio più il 3x2, perché si fanno meno scorte? Eh sì, è proprio così. Giustamente, come dicevi tu e come dicevano anche i colleghi intervistati, si fa molta più attenzione di prima a quello che si mette nel carrello della spesa e quindi si evita di approfittare di promozioni che spingono a consumare o ad acquistare più del necessario, tant'è che le formule ormai promozionali più di maggior successo sono quelle del taglio prezzo, quindi della riduzione sul prezzo effettivo di un solo prodotto, quindi non più promozioni legate al quantitativo acquistato. Questa è una delle grandi tendenze in atto. Dall'altro lato devo dire che c'è una maggiore attenzione anche a marche diverse da quelle a cui siamo abituati. Anche i colleghi di cui abbiamo sentito prima le testimonianze hanno, uno perlomeno ha parlato di marche. Fino a pochi anni fa le marche erano per definizione quelle, le grandi marche industriali, che sono invece quelle che attualmente soffrono di più perché sono ormai tallonate da vicino e certe volte superate dalle marche private, cioè dai prodotti a marca del supermercato, prodotti che comunque garantiscono una buona qualità e soprattutto un buon rapporto qualità-prezzo. Del resto le analisi condotte, i test condotti da Altro Consumo hanno spesso dimostrato come analizzando dei panieri di prodotti spesso siano a dire proprio le marche commerciali i prodotti che hanno la migliore convenienza. Le private label le chiamano. Private label, esattamente, che sono invece in assoluta controtendenza perché a parte pochissime categorie di prodotto sono le uniche a crescere. Manuela, tu nella tua attività hai mai esplorato il lavoro dei gruppi di acquisto? So che peraltro il primo in Italia è nato proprio nella tua città, Fidenza. Sì, esattamente, sì, mi è capitato di occuparmene diverse volte, sono un fenomeno molto interessante che in pochi anni è cresciuto tantissimo, sono diventati una vera e propria altra economia parallela a quella che noi conosciamo e hanno fatto tanto. Certo, richiedono solo una formula che non può essere applicata da tutti, richiedono un particolare atteggiamento e comunque una condivisione di acquisti, di bisogni da risolvere o da soddisfare, che sicuramente non sono per tutti, ma portano dei concetti nuovi, un approccio nuovo all'economia che io comunque considero molto interessante, molto innovativo. Ed è quella esperienza che ci sta raccontando questa mattina Giancarlo Marini del Gasdotto di Milano, coautore dell'Altra spesa, consumare come il mercato non vorrebbe. I gas, ricordiamolo, allora non sono dei gruppi di risparmio, ma gruppi che adottano anche una filosofia di vita e di consumo responsabile. Sì, e devo dire, ed è una filosofia che vince, almeno in questo momento. Credo che in controtendenza rispetto a tutto lo scenario nazionale, non solo i gruppi di acquisto crescono, aumentano, ma i fornitori che lavorano con i gruppi di acquisto non hanno risentito la crisi, spesso hanno dovuto fare delle nuove assunzioni, proprio questo perché si inserisce in un progetto più ampio in cui tu riconosci al tuo interlocutore il valore del suo lavoro. Poi quando si parla di gruppi di acquisto si parla sempre di risparmio. In realtà poi il discorso sui prezzi, oltre a quello sui costi sociali che abbiamo detto prima, è un pochettino più articolato, un po' più ampio. È vero che magari sul singolo prezzo, sul singolo prodotto consumi, paghi un po' di più, ma è un risparmio che fai nel tempo. Una famiglia del nostro gas ha tenuto per 3 anni circa tutti i conti è una famiglia molto, molto regolare, due ingegneri, hanno tenuto tutti i conti. Beh, se non li tenevano loro ci mancherebbe. Esatto. Loro che cosa hanno visto? Hanno visto che man mano che cresceva la spesa con il gas, quindi di altri prodotti, man mano che si è allargato il paniere dei gas, è diminuita la spesa al supermercato, e questo è comprensibile, ma è diminuita complessivamente la spesa totale, il valore della spesa totale. Questo perché ha imparato a consumare meglio, a consumare prodotti che non marciscono, hanno evitato quella che è la cosa terribile oggi dei centri commerciali e supermercati, che si scende a prendere il latte e si esce con il carrello pieno. Sono, cioè, gli acquisti responsabili alla fine pagano, portano un risparmio. Allora, prima di raccontarci come si fa ad aprire, ad attivare l'attività di un gruppo di acquisto solidale, per quali prodotti è possibile farlo, credo che ormai il campo d'azione sia a 360 gradi, vorrei Giancarlo che ci raccontassi l'esperienza del biocaseificio Tomasoni, perché è molto bella, molto particolare. Che cosa è successo a questa azienda? Beh, credo che questa sia una storia che si può raccontare solo all'interno di questa realtà dei gruppi di acquisto. Il biocaseificio Tomasoni è un nostro fornitore da tanti anni, da una decina d'anni ha fatto il passaggio al biologico, per una serie di circostanze tecniche che è inutile stare a raccontare. Alla fine di due anni fa è andato in una crisi finanziaria, in una crisi di liquidità, non era più in grado di pagare i fornitori di latte. Questo ha fatto sì che le banche, era anche il momento in cui le banche hanno chiuso i rubinetti a tanti piccoli imprenditori, gli hanno detto non ti diamo più una lira. Conti in crescita, fatturato in crescita, aumento, impossibilità di chiudere con queste 150.000 euro. I gruppi di acquisto si sono organizzati, ci siamo trovati una sera e sotto vari modi, in varie forme di sponsorizzazione, abbiamo recuperato questi 150.000 euro che sono stati dati parte come anticipo forniture, parte come prestito senza interesse, parte attraverso una finanziaria che poi servirà. Ecco, io credo che questa idea di un'azienda salvata dai propri clienti, se proprio la mettiamo in termini di economia tradizionale, sia un esempio assolutamente irripetibile se non si entra in questa prospettiva del rapporto diretto con il tuo produttore. Ci piace anche ricordare che c'è stata un'altra evoluzione che Tomasoni, se non ho capito male, adesso assumerà. Certo, certo. In questa situazione Tomasoni oggi andrà ad assumere due persone, di cui una all'interno di categorie protette. Volevo sentire una riflessione di Marco Bulfone, esperto di indagini di mercato di Altro Consumo. Voi che fate tante prove sul campo, prima Manuela Soressi lo ricordava, avete i vostri laboratori dove cucinate la pasta per testarne la qualità, oltre che di tanti prodotti alimentari, andate in banca a verificare come vengono condotte le trattative tra cliente ed impiegato per aprire un conto corrente, così come per sottoscrivere un mutuo, un prodotto di risparmio. Nella realtà dei gas avete mai curiosato, Bulfone? No, in verità non abbiamo mai affrontato questo tema, anche perché è molto complicato, sarebbe anche, come dire, piuttosto difficile andare a fare un'analisi di questo genere. I gas sono molto numerosi, sono molto differenziati l'uno rispetto all'altro. Per disponibilissimi a essere indagati quando vuoi. Allora, no. Questo immagino. Preferiamo da questo punto di vista piuttosto seguire la loro mentalità, cosa che in questi ultimi due anni abbiamo un pochino cercato di fare, cioè molto spesso i nostri articoli sono accompagnati da una sezione in cui cerchiamo di approfondire il modo in cui il prodotto è appunto, diciamo così, è prodotto, cioè cosa ci sta dietro dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche delle conseguenze per le risorse umane che hanno dovuto lavorare per produrre ciò che consumiamo, e cerchiamo da questo punto di vista di sensibilizzare i nostri lettori e i nostri associati anche a questa componente. Devo dire peraltro che più in generale il fatto che ci siano delle persone che si rendono sempre più sensibili a questo tema è particolarmente importante. L'esperienza dell'ambientalismo credo che sia molto significativa. Fino a un po' di tempo fa di ambiente non si occupavano che alcune persone particolarmente sensibili, oggi invece è un tema dominante. Credo però anche che sarebbe bene che anzitutto a livello istituzionale, cioè di governi o addirittura a livello di Unione Europea si cercasse di trovare un modo per in qualche modo incentivare la sensibilizzazione a questi temi. Allora si parte con, come dire, con le buone pratiche, con l'iniziativa di pochi, le grandi battaglie d'altronde partono proprio in questa maniera, chiaramente sperimentando e quindi facendo in modo che qualcuno, piccoli gruppi intraprendano dei passi per poi appunto fare in modo che questi gruppi si arricchiscano. Allora ci dobbiamo fermare adesso per un po' di pubblicità, poi ritorniamo, anzi adesso ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio, poi ritorniamo con l'ultima parte della trasmissione, torneremo tra le abitudini dei miei colleghi conduttori di Radio 24 per capire come si comportano quando arriva la bolletta della luce o del gas a casa e soprattutto che modalità e che strumenti di pagamento utilizzano per la spesa. Tra poco. Stiamo dedicandoci oggi alle abitudini di consumo delle famiglie italiane, come sono cambiate quest'anno alla luce della crisi che ha messo ancora in grande difficoltà molti nuclei familiari e soprattutto una crisi di più ampia portata che invece ha anche portato le famiglie a scelte di maggior consapevolezza nel riempimento del carrello della spesa, così come anche nella gestione di altre spese quotidiane. Allora io mi sono fatta aiutare, oltre ai tre ospiti che questa mattina sono con me, anche dai colleghi conduttori di Radio 24. Sono andata un po' a curiosare nell'ambito del loro menage familiare. Sentite che domanda che ho fatto adesso. Ho chiesto a loro, io vi ricordo chi è che mi ha aiutato appunto ad arricchire la trasmissione, ho interpellato i colleghi Nicoletta Carbone, Gigi Garanzini, Matteo Caccia, Stefano Gallarini ed Alessandro Milan. Ho chiesto loro se sanno che cosa sia la tariffa bioraria. Cos'è la tariffa bioraria? Non me lo dici? So cos'è la tariffa bioraria e ce l'ho. La tariffa bioraria, se è quella dell'energia, cioè se è quella dell'Enel, comunque, cosa sì, lo so e come, perché metti che uno ogni tanto faccia una sauna e conviene scegliere certe ore del giorno e le scelgo, perché poi le bollette a fine mese non sono uno scherzo. Guarda, potrei dire una castronata clamorosa, qualcosa legato alla bolletta elettrica, credo. Sulla bolletta faccio tutte le indagini del caso, lì sono molto preparata. E allora avete sentito comportamenti molto diversi, forse fare riempire il carrello della spesa ci diverte un po' di più, quando arriva la bolletta diciamo che quello è un documento che sta sul mobiletto dell'ingresso di casa nostra un po' più a lungo rispetto magari ad un altro tipo di posta che ci può arrivare. Manuela Soressi, ricomincio con te, hai sentito quante cose un po' folcloristiche sono uscite, un collega Stefano Gallarini ha detto io ce l'ho, per la verità la bioraria ce l'abbiamo tutti a disposizione, insomma consumando in certi orari della giornata è possibile appunto alleggerire la bolletta dell'energia. È un settore questo che tu esplori in genere nelle tue indagini per quello che riguarda i comportamenti all'interno del nucleo familiare, a prescindere dalle spese che si fanno, ma proprio in termini di comportamento sta cambiando qualcosa? Manuela? Anche qua, sì, assolutamente, anche questo fa parte dell'evoluzione, diciamo che la crisi economica che ci ha toccato un po' tutti, chi più chi meno, ci ha costretto a ripensare e sicuramente ad informarci maggiormente, ad essere più razionali, non solo per quanto riguarda la spesa quotidiana ma anche le utenze, anche se sulla tariffa bioraria ad esempio ci sono poi dei problemi che sono stati avanzati anche da alcune associazioni di consumatori sul discorso che non tutti possono applicarlo perché per via delle questioni condominiali. Esatto. Dalle 19 in poi non è sempre possibile utilizzare i grandi elettrodomestici. Comunque è un passo in avanti per spingere, secondo me, gli italiani ad essere più consapevoli dei loro consumi, dei loro sprechi e a proporsi in una maniera diversa nei confronti di queste, anche delle utenze che finora, forse anche perché c'era stato comunque un regime monopolistico, non c'era una forte concorrenza tra gli operatori, per cui non avevano avuto grosse novità o novità rilevanti dal punto di vista del risparmio per decenni. E invece adesso insomma il mercato si è liberalizzato, anche se è molto complicato passare da un distributore ad un altro, e questo è un tema che abbiamo analizzato molto spesso a Salvadanaio. In ogni caso gli italiani si sono resi un po' più consapevoli anche su questo versante, in ogni caso questo mercato lo usano, poi non sempre funziona in termini di risultati di risparmio, ma quantomeno sono diventati un po' meno passivi anche nelle scelte di questo tipo. Giancarlo Marini, L'ultima frontiera dell'attività dei gas è proprio quello di andare a negoziare addirittura con i grandi distributori di energia, e anche lì per riuscire ad ottenere le bollette più leggere. Ma come fate? I grandi sono piccoli distributori di energia. È un produttore di energia verde. Ecco, l'energia si presta perfettamente a quelle cose che avevamo raccontato prima, di come poi il profitto individuale si sposa male, anzi non si sposa per niente con quello che è il bene comune. Sentivo un po' di tempo fa la pubblicità di un grosso produttore di energia, diciamo, di un grosso fornitore di energia, che sostanzialmente diceva questo: state con noi, più consumate, più vi premiamo. Ora, dal punto di vista della logica del marketing interno è assolutamente perfetto, dal punto di vista del bene comune è una comunicazione folle, nel senso: più consumate, più deturpate l'ambiente, più portate via risorse, e meglio state, più risparmiate. Ecco, anche sul tema dell'energia i gruppi di acquisto si sono organizzati da un po' di anni, devo dire, i tempi sono lunghi, sono 3 anni che ci stiamo lavorando, stiamo sperimentando in questi giorni, in questi mesi, le prime forme di un contratto con un produttore di energia alternativa, di energia verde, all'interno del quale ci sarà un premio per chi risparmia. Cioè, rispetto da un anno all'altro, ci sarà un premio per chi rispetto all'anno precedente ha consumato di meno, premio che andrà probabilmente all'interno di un piccolo fondo, di un tesoretto che verrà costruito, che servirà poi ai gruppi di acquisto per promuovere i temi dell'energia, del risparmio consapevole. Volevo sentire Marco Bulfon su questi temi, perché una prima pagina del Sole 24 Ore di qualche settimana fa così metteva già in guardia le famiglie italiane da tutti gli aumenti tariffari che sarebbero arrivati a partire dal prossimo anno. Credo che peraltro la voce gas potrebbe essere una delle prime a scattare a partire dal 1 gennaio, ma ci aspettano dei rincari per esempio sul fronte dei trasporti, perché da quello che ho capito, con le riduzioni di trasferimenti che lo Stato ha fatto ai danni delle regioni, e quali regioni in qualche maniera dovranno colmare questi minori introiti che arriveranno dal governo centrale, e tanto altro. Insomma, avete già teoricamente fatto delle previsioni su quello che potrebbe succedere nelle tasche delle famiglie italiane da questo punto di vista? Noi siamo passati appunto dall'energia adesso ad un campo un po' più ampio, Bulfon. Che cosa potrà succedere l'anno prossimo? Ma delle stime specifiche non abbiamo fatte. Certo che se andiamo a vedere che cosa è successo negli ultimi anni, il passaggio dell'anno è sempre stato un momento estremamente critico. Tutte le tariffe possibili ed immaginabili sono cresciute. Dal punto di vista energetico ci si può scommettere che ci dovremmo aspettare degli aumenti, perché dopo quello che è successo alla benzina in questi ultimi tempi è evidente che poi certi aumenti si riverseranno anche su gas e luce. È verosimile aspettarsi degli interventi anche sulle tariffe autostradali, ci sono stati degli interventi sulle tariffe dei treni, insomma ci si può aspettare interventi un po' su tutti i fronti. Quindi come posso dire, da questo punto di vista il passaggio dell'anno non è mai un momento particolarmente glorioso. Felice, infatti. E quindi, insomma, per tutte quelle regole di comportamento che possono portare le famiglie a risparmiare, forse quest'anno, già abbiamo parlato di un'assunzione di atteggiamenti più consapevoli e responsabili da parte delle famiglie negli ultimi anni, è probabile che il 2011 ci farà mantenere gli stessi atteggiamenti adottati in maniera virtuosa, manuela, negli ultimi tempi, e forse dovremmo anzi rafforzare un po' di più le buone abitudini. Tra l'altro io qualche volta mi occupo anche di, nell'ambito della nostra trasmissione, di così dare qualche suggerimento alle famiglie su come stabilire una buona pianificazione personale e domestica attraverso il controllo delle entrate e delle uscite. Adesso ci rimangono davvero un paio di minuti di tempo, ma ci puoi dare 2 indicazioni, Manuela, su chi non è mai stato abituato alla regolarità nel controllo di quello che entra e quello che esce in casa? Un suggerimento per chi non si è mai avventurato in questo terreno. Ci vorrebbe una trasmissione intera, lo so, però proviamoci. Sì, infatti, proviamo a semplificare. Lista della spesa per quanto riguarda i consumi da spulciare, quindi mai andare, come diceva il collega intervistato, al supermercato quando si ha fame, perché si tende a comprare di più e farsi prendere per la gola. Controllo assoluto di quello che c'è in frigorifero e quindi un monitoraggio continuo di quanto si sprecano i freschi perché non vengono consumati per tempo, e confronto dei volantini promozionali con le offerte. E ci sono tra l'altro anche molti siti che sono nati negli ultimi anni che fanno già questo lavoro in automatico in alcuni portali e che permettono di consultare rapidamente le offerte, capendo anche se sono veramente convenienti, perché non basta stampare un bel volantino pieno di sconti speciali per offrire una reale convenienza. Assegno un'ultima raccomandazione anche a Giancarlo Marini con l'altra spesa, consumare come il mercato non vorrebbe. Ho visto che anche nel vostro libro date qualche indicazione di buon senso di comportamento nella gestione della finanza familiare. Sì, sicuramente. Il primo comportamento è formate un GAS. Andate insieme. Trovate, un gruppo d'acquisto solidale, perché sennò pensano chissà solidale. Che cosa. Trovate degli amici e insieme provate a pensare che si può acquistare in un altro modo. Benissimo. Ricordando che ogni volta che si compra si vota. Ah, però, e con questo messaggio finale io saluto Marco Bulfon di Altro Consumo, la collega Manuela Soressi e Giancarlo Marini del Gasdotto di Milano. Ringrazio per essere stati con noi. Grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione. Vi saluto, ci sentiamo domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.